Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Iniziamo la settimana con i magazine tornando in studio, via Zanardi, Radio Città Fujiko, la prima rubrica settimanale del Breakfast Club, la rassegna stampa culturale che parte con uno spazio di approfondimento. A breve è stata portata la stagione di prosa, pensate, ancora in corso, la 2023-2024, già hanno presentato la 2024-2025, quindi un'anticipazione che porta tanti titoli, oltre che 14 al Teatro Duse, 14 titoli in abbonamento, dei ritorni e delle conferme, ma anche novità di indiscusso talento, i protagonisti che troviamo, Lella Costa, per citare alcuni nomi, Vanessa Incontrada nel teatro mainstream, Flavio Insignia e tanti altri, poi nuovi spettacoli di Alessandro Bergonzoni, Elio Germano e quindi una programmazione ricca anche per il 2024-2025. Con ampio anticipo ne diamo spazio di approfondimento ascoltando la voce di chi è in consiglio di amministrazione, presidente del CDA del Teatro Duse, Walter Maramor, e allo stesso tempo anche all'interno della direzione artistica. Sentiamo le sue parole per quanto riguarda questo largo anticipo 2024-2025 al Teatro Duse di Bologna. Stiamo inaugurando una nuova stagione, oggi la conferenza stampa, ma nello stesso tempo stiamo ancora chiudendo quella passata, una stagione che possiamo definire davvero straordinaria, come quelle pre-pandemia, quindi diciamo che ci siamo messi alle spalle un grande problema. Tante presenze in questo teatro, che è uno dei teatri più importanti a livello nazionale, ricordiamolo, 145.000 spettatori con 65 sold out, vuol dire 65.000 persone che hanno riempito il teatro, oltre agli altri, insomma. Un dato molto interessante che abbiamo voluto analizzare è che il 35% di questo pubblico così vasto è composto da under 30, da persone under 30. Quindi siamo molto felici che il Teatro Duse, che è il grande teatro della tradizione, sia anche frequentato da giovani che poi rinnovano il nostro pubblico, rinnovano i nostri abbonati. Anche grazie ad una manifestazione, a una programmazione che noi svolgiamo all'interno degli istituti superiori ormai da 10 anni, che avvicina i giovani al teatro. Stagione nuova con tantissimi classici, ma visti in modo contemporaneo, quindi anche vicini a questo mondo dei giovani. E partiamo con Alessandro Preziosi in una nuova versione di Re Lear, si chiama Aspettando Re Lear. Lui ha voluto citare anche Aspettando Godot di Beckett in questo nuovo lavoro, e così via, tanti classici, Goldoni, Molière, Shakespeare, ma anche bellissime commedie. Diciamo che noi cerchiamo sempre di vedere innanzitutto gli spettacoli che poi saranno ospitati, quando non è possibile perché sono nuovissimi, di vedere chi è il primatore, la produzione, cioè cercare di mantenere altissima la qualità della nostra proposta, che tra l'altro ci viene riconosciuta da questo pubblico che frequenta il Teatro Duse, tanto pubblico. Il Firouz quest'anno, un po' ne parlavamo prima, è proprio questo, diciamo, avvicinamento al classico in una visione contemporanea, registi e primi attori che si mettono a disposizione dei grandi classici e lo raccontano con la visione di oggi, quindi anche temi contemporanei importantissimi e anche tragici come il femminicidio, pensiamo all'Otello con Lella Costa, ecco, vengono trattati grazie ai grandi classici. E tra le quali voglio ricordare le produzioni dei soci del Teatro Duse, ovvero la produzione di Artisti Associati, che è uno spettacolo con Vanessa Incontrada, e la produzione della Contrada Teatro Stabile di Trieste, che ha un'altra Vanessa come protagonista, Vanessa Gravina. We'll be right back. baixo mais alto aqui na minha orelha. Città con grandi nomi ripresi nel contemporaneo, nelle questioni di attualità più importanti, questo filo conduttore al Teatro Duse per la presentazione della stagione di prosa 2024-2025, i primi indubbiamente con la stagione 2023-2024 ancora in corso, hanno voluto portare l'attenzione anche a quello che sarà nell'immediato. Grazie ad Alessia Cesari per ad Alessia Sironi, scusate, per questa anticipazione, per aver portato il servizio all'interno dei magazine del Breakfast Club. E appunto continuiamo motivi di conversazione, sempre restando con la direzione artistica del Teatro Duse di Bologna, ascoltando le parole di Livia Amabilino. Il Duse Extra è una sezione che abbiamo introdotto fin dall'inizio con varie tipologie e vede dei grandissimi ritorni perché hanno avuto un successo talmente grande che noi li riproponiamo. Ne cito solo alcuni, riproponiamo Silvia Gallerano con La Merda, Lopez e Solenghi, Dove eravamo rimasti, ha avuto un successo strepitoso tra i giovani, Eleazaro Rossi, Giovanni Scifoni che ripropone una visione di Francesco d'Assisi in una chiave contemporanea, perché la pace, l'animalismo, qualche cosa che è rivista da un attore in una maniera veramente straordinaria. Torna anche Spollon, che invece indaga forse un aspetto più intimo, diciamo, della nostra vita, della nostra psiche. E poi un grandissimo personaggio come Baricco, che è naturalmente un grandissimo scrittore, fondatore della scuola Holden, drammaturgo, un personaggio culturale a tutto tondo, che qui rivede in 7 capitoli un suo romanzo importante. I need a vinegar. Einige wenige wachsen über sich hinaus. Yeah. Con Fanta Teatro, un'estate mitica, la rassegna di Fanta Teatro diretta da Sandra Bertuzzi. Cito alcuni titoli: 25, 26 e 27 giugno alle 20:45 il mito di Eco e Narciso, il 2, il 3 e il 4 luglio Re Mida, 9, 10, 11 luglio Daphne, questa figura tanto bella quanto inafferrabile, 16, 17, 18 luglio invece Un ragazzo bellissimo ed è Adone. Ecco, dato il via ai primi quattro miti ripresi anche dalle Metamorfosi di Ovidio al Teatro Duse, un'estate mitica, punto, la parola è assolutamente attinente con il mito, la direzione di Sandra Bertuzzi per l'inizio estate, poi ho dato piena estate per questi quattro titoli al Teatro Duse. Andiamo in pubblicità, poi si rientra con i magazine, rassegna stampa culturale di inizio settimana. Ah, a proposito, avrei anche un quiz, quindi attenzione, 333-180-9494. Iniziamo pian piano a dare qualche idea, qualche così indicazione per indovinare il personaggio misterioso. È nato negli Stati Uniti d'America e domani sarà ufficialmente il suo compleanno. Non è più tra noi questo personaggio, nato negli Stati Uniti d'America l'11 giugno, quindi un gemelli. Domani ufficialmente la sua data di nascita, scompare purtroppo nel 2016. Beh, è giusto anche che abbiate l'idea del premio. Il premio è un lavoro che esce per la Giuntina, casa editrice da tenere d'occhio con attenzione, perché ho voluto portare questo libro non per autocelebrazione, però il titolo è semplicemente Willy, questo contadino, del resto è un giovane contadino che vuole ottenere una sua libertà, nonostante la giovane età vuole la sua indipendenza. Siamo in un periodo molto particolare, lui tra l'altro è in uno shuttle ebraico di Mitteleuropa, ne sapremo di più in quanto è presentato da Tutto Libri della Stampa, con cui apriremo questi nostri magazine. Alcuni dati per trovare il personaggio misterioso al 333-180-9494, nato negli Stati Uniti d'America l'11 giugno, per cui insomma siamo anche a tiro con l'ipotetico compleanno, purtroppo non è più tra noi. Ci sentiamo tra poco con i magazine. Ci sono tante attinenze con il personaggio misterioso dall'entrata e la ripresa della pubblicità ai magazine al 333-180-9494 per avere la pubblicazione giuntina per un scrittore, Isaac Singer, di cui tanto abbiamo parlato. Quindi Il violino, sì, nelle colonne sonore di questi film, in quanto attore, è stato protagonista o coprotagonista oppure un'immagine particolare. Anche il nome di questo violinista, che è uno dei musicisti per quanto riguarda la Winter and Winter, qui lo ascoltiamo insieme a Dave Douglas, lui risponde a nome di Mark Feldman. E anche il titolo del libro ha a che fare con il personaggio misterioso. Un po' disordinato, vi sto portando indizi per questa figura, per questo attore statunitense. 11 giugno 1933 scompare sempre negli Stati Uniti d'America il 29 agosto del 2016. Avremo altri motivi di dialogo con ascoltatrici e ascoltatori. Intanto, pagina 4 riprende un filo conduttore per tutto Libri della Stampa uscito nel sabato del weekend appena passato. Tutto Libri che vorrei fosse in edicola per tutta la settimana, però l'approfondimento e filo conduttore di storiografia è sul colonialismo. Lo fa soffermandosi anche sull'Italia, ovviamente, sfatando alcuni miti di pregiudizio e stereotipo come quello del colonialista buono. No, scordatevelo, assolutamente no. Intanto altri paesi stanno facendo i conti, ora che sono gravemente in difficoltà, guardano un attimo alla storia e dicono: oddio, non è che poi questo periodo, epoca coloniale per noi sia stato motivo di grande vanto. No, tutt'altro. Secondo la Vulgata si andava in Africa per lavorare, costruire strade e ospedali. Non era esattamente così, e nella narrazione fascista durezza repressiva e stragi venivano accantonate. È un lavoro, Storia del colonialismo italiano, edizioni Carrocci, è un saggio che portano Alessandro Pes e Valeria De Plano. Qua ne dà un approfondimento su un'indagine, gli effetti della pericolosa equivalenza tra diverso e inferiore. Se noi italiani siamo così, lo siamo non perché lo siamo stati, ma perché lo siamo diventati. A farci quello che siamo sono tanti tanti soggetti diversi: le istituzioni, certamente, con la scuola e i suoi racconti, poi i mezzi di comunicazione di massa, la TV, il cinema, il mercato, il cibo che abbiamo mangiato e che stiamo mangiando, quello che in passato abbiamo consumato e che ora consumiamo, e via dicendo. L'Italia liberale aveva un suo progetto, quello di fare gli italiani, usando i prefetti, la leva obbligatoria, una tradizione inventata, e qui sottolineo, incentrata sulle vicende dei Savoia, sull'epica del Risorgimento, e il fascismo aveva come obiettivo quello di fascistizzare gli italiani attraverso il culto del superuomo, la romanità, il partito unico, le adunate oceaniche e altri simili mezzi. I partiti di massa della Prima Repubblica, la DC e il PC, volevano farci diventare cittadini democratici, elettori disciplinati, fedeli a un'idea di religione civile fondata sull'arco costituzionale, sulle forze politiche che lo avevano varato. Insomma, sono stati tanti e diversi i progetti che hanno voluto farci, a ognuno di essi corrisponde una fase della nostra storia in chiave storiografica. In ognuno è possibile distinguere analogie e differenze con gli altri attraversando le continuità e le rotture che hanno segnato il percorso attraverso il quale siamo diventati italiani. Questo è l'incipit dell'articolo molto bello scritto da Giovanni De Luna, pagina 4, in copertina di Tutto Libri, Pregiudizi e Stereotipi. Grazie. Grande Paola e bravo anche Dino. Prima Paola, però, anche se Dino molto sportivo in maniera decubertiniana dice io partecipo perché voglio giocare, beh, lui è Gene Wilder, il violino perché è Ben Frankenstein Junior. Willy, il titolo del libro, riporta Willy Wonka. Willy Wonka. Ho aggiunto una K ulteriore. Willy Wonka. I miei personaggi preferiti erano gli Oompa Doompa. Brava Paola, risposta esatta, Gene Wilder. Siamo stati definiti capitalisti coloniali straccioni da Lenin e non solo per le figure fatte, per quello che è stato raccontato in maniera assolutamente falsa. E in tutte queste continuità troviamo dal Corno d'Africa fino ad arrivare tra Eritrea, Somalia, Libia e per soli 5 anni in Etiopia un'analisi di quello che è successo e di come gli italiani brava gente non siano assolutamente mai esistiti, dalle stragi portate da fascisti come Graziani, dove massacrarono più di 2000 etiopi tra monaci e fedeli. In quella narrazione veniva accantonato, certo, non veniva certo raccontato, anzi tutt'altro, veniva messo da parte. Il pregiudizio ce lo ha ricordato Norberto Bobbio, è peggio, molto peggio dell'ignoranza. Questa la puoi combattere ampliando il campo del sapere e usando come armi efficaci tanti buoni libri sui quali è possibile documentarsi. Il pregiudizio invece è credere di sapere senza sapere. E ce lo portiamo tuttora dietro, l'analisi che ci porta ai giorni nostri a raccontare questa storia, ad ascoltare queste parole, il fascismo con il suo razzismo esplicito, l'esaltazione dell'uomo bianco come valore assoluto, la sua legislazione segregazionista, la colpevole indifferenza verso i diritti civili dei popoli colonizzati, ma anche di quelli che avevano avuto la sfortuna di essere afro-italiani, la durezza repressiva, le stragi come già ho ricordato, hanno portato poi un percorso anche ai giorni nostri di mancanza con lo sguardo assoluto verso altre popolazioni e altre culture, cosa che stiamo pagando tuttora in maniera molto grave, autolimitandoci, fra l'altro, ad esempio un aspetto che può risultare di contorno, ma che di contorno non è. In Italia non abbiamo affatto un buon approccio con lingue di altri paesi. Come in altri paesi, tutti i ragazzi, anche giovanissimi, conoscono oltre la lingua madre altre lingue. Da noi c'è una grandissima difficoltà, anzi troviamo quasi ridicolo, io ho visto questa sensazione, per l'approccio a lingue di altri paesi, anche come l'inglese, anche come il francese, estremamente vicini a noi, ma per i giovani e giovanissimi c'è quasi un senso di imbarazzo, di ridicolo nel poterle esprimerle, nel conoscerle e nel poterne parlare in maniera, non dico corretta, ma nell'imparare e nell'avvicinarsi. Ecco, ad esercitarsi in tutto ciò vedo nei ragazzi una sorta così di vergogna, per così dire, di ridicolo, ecco, più che di vergogna. Questo è un'eredità, se vogliamo, è una delle tante eredità negative che arrivano purtroppo ai giorni nostri con un allontanarsi dal diverso. Questo ne è un piccolo esempio, ne potrei fare tantissimi, ma con uno sguardo ai più giovani è il primo nel notare la quotidianità che stiamo portando ai giorni nostri, un aspetto gravemente negativo che arriva da un'eredità per cui, se vogliamo, combattiamo tutto quello che è diverso, ne stiamo ben lontano e non ne vogliamo sapere di imparare qualcosa di altro. Got down on my knees and I pleaded with you not to go, but to stay in my arms. Would you roll out the door like you did once before? Let's be like a Quindi il violino di Mark Feldman è lo stesso nome con Marty Feldman, attore che in coppia con Gene Wilder ha portato il grandissimo successo di Frankenstein Junior. Potremmo dare altri indizi appunto per l'attore bravissimo fra l'altro di Gene Wilder nella figura di Willy Wonka, no, Willy Wonka con gli Oompa Loompa nella fabbrica del cioccolato. Il titolo del libro è Willy, edizioni Giuntina. Isaac Singer, uno degli autori di cui spesso parliamo per una cultura, una tradizione dagli Shettle di Mitteleuropa, è un libro molto particolare. Beh, Paola, ne sono molto contento di potertelo consegnare, il premio è meritatissimo. Anche Dino, che però oltre a essere arrivato secondo non ha voluto partecipare, mandando un abbraccio mattiniero alle ascoltatrici e agli ascoltatori dei 103.1. Shaking me, making me alive and drive, striving towards my goal, the old five. Minute temporary thrills I've done with, cause I'm a serious brother man, not a dumb kid. It's rapidly dawning on me. Quindi un'eredità negativa che il passato coloniale, credendosi superiore e dominante soprattutto dall'Africa, ci porta poi in conseguenza a una mancanza non solo di sguardo oltre confine per tutto il resto del mondo, ma in particolare un razzismo dei quali stiamo pagando le spese anche ai giorni nostri, autolimitandoci. L'articolo di apertura di tutto Libri della Stampa e poi ne dà uno sguardo anche in Europa, perché ovviamente la realtà coloniale è stata tristemente protagonista in tutta Europa, ricordando che in Italia dal 1880 l'Italia diventa colonialista, quindi... E non credevo che ufficialmente chiuse con il colonialismo, sapete quando? Nel 1960 con il presidente Gronchi. Troppi anni. Beh, però se dal 1880 facciamo un passo indietro, arriviamo al 1840, arriva la versione definitiva del capolavoro tutti i tempi, che magari ho avuto la possibilità di leggere da solo consultandomi con alcuni intellettuali letterati con cui ho ascoltato le parole e condiviso i contenuti, e non solo dietro i banchi di scuola, dove tante e tanti invece hanno trovato i Promessi Sposi assolutamente noioso. No, per me non lo è stato affatto, anzi mi ha appassionato tantissimo da portarne un approfondimento con un saggio né lingua colta né dialetti, Manzoni e l'ossessione per un italiano vero. Pensate, un lavoro che dal 1840 ha riunito Milano con Palermo, e pensate che ufficialmente la prima stesura arriva nel 1827, tanto più che le due edizioni, la 27ana e la 40, perché 1827-1840 non era Renzo e Lucia, era Fermo e Lucia. Beh, meglio Renzo, se vogliamo. Travaglio creativo si riversava nel fare e rifare il romanzo nelle sue varie stesure. Nella prima stesura con tutte le note a piè pagina, tutte le aggiunte, tutte le correzioni, la politica linguistica, la società dei parlanti, il modo di poter comunicare con una popolazione quanto mai estesa e così diversa, così eterogenea. La quarantana è l'edizione ufficiale che viene riportata, e dico sempre per poter leggere. Se uno vuol leggere poi tutto quello di cui ha desiderio, questo lavoro, questo appuntamento letterario con l'edizione genetica della quarantana, cioè il Promessi Sposi ufficiale con tutte le note, è un lavoro che costa la bellezza di 140 euro. Però insomma, tra un po' il mio compleanno, farmi un autoregalo così, ne avrei molta, così sarei molto contento, direi grazie Willy che ti sei fatto questo regalo. la società dei parlanti, coloro che avevano modo e maniera e cercavano una unità anche nella lingua in modo che fosse comprensibile in spazi così diversi tra di loro. I Promessi Sposi, che porta da Milano a Palermo questa realtà, e nella ventisettana, pensate, aveva scritto, attenzione, perché questa è la parte che vi ha nel particolare portato attenzione di più ai motivi di comunicazione e al motivo dello scrivere e anche del parlare. Nella ventisettana, quella che era più, diciamo così, ristretta, alza uno strido, mentre invece nella quarantana preferisce mettere caccia un urlo. Alza uno strido. No, aspetta che mettiamo una cosa un po' più e riporta caccia un urlo. C'è un linguaggio di italiano comune, ma nello stesso tempo ovviamente riportato dal Manzoni. All'ultimo secondo manda alla casa editrice: no, ma che fermo è Lucia, manda subito qualcuno a correggere, perché nell'ultima edizione, quella del 1840, diventerà poi Renzo e Lucia, che conosciamo benissimo anche ai giorni nostri. Un piccolo stacco musicale e poi torniamo, perché a proposito di tradizione, e qui ho scoperto veramente le robe da Alias del Manifesto, e beh, è il gioco da tavola per eccellenza, da lì derivano poi, per me, come dal bridge derivano tutti i giochi di carte, se vogliamo. Per quanto riguarda il gioco da tavola con i dadi, qual è il gioco ufficiale? Beh, il gioco dell'oca, ma si perde nella notte dei tempi, c'è un mito dietro di racconto, ma è bellissimo, e non credevo. Intanto abbiamo delle idee completamente sballate, come al solito, no? Per certi animali che noi definiamo poco nobili, tanto più si definisce un'oca, sia al maschile che al femminile, una persona distratta, un tonto, una tonta, una un po' sciocchina, com'è che si dice? Un'occhetta, no? Anche significati volgari nel bolognese. E per quanto riguarda invece la tradizione di questo gioco, pensate, ecco, è quanto sia travisata l'idea della figura del noto palmipede. Beh, quando si trovano geroglifici, la figura del faraone veniva stilizzato con un'oca, quindi un animale importante per la figura massima. Beh, del resto, come l'asinello, che è una figura, si dice, no? Sei un asino, mentre invece Gesù entrò a Gerusalemme cavalcando un asino, quindi è diventato nel tempo poi la figura come animale che porta la verità, ed è un animale molto nobile. Ma restiamo al palmipede, tra l'altro ideato, guarda un po' il nome, Palamede, una figura che è stata, per così dire, anche sottovalutata nel resto della storia e del mito, perché Palamede era talmente furbo, era più furbo che Ulisse, che Odisseo, tanto più che Odisseo dice no, basta, non puoi essere più furbo di me, ti uccido. Ecco, sapete che non andavano tanto per i sottili all'epoca. Di Palamede ne parleremo, perché era una figura veramente molto molto astuta e l'aveva ideato durante l'assedio di Troia, perché si stavano annoiando, quindi con i dadi lui ha inventato questo percorso, questo strano percorso che avanzava, trovava difficoltà, trovava a volte invece motivi di vantaggio, doveva chiudere un determinato percorso il vincitore del famoso gioco dell'oca, che è arrivato fino ai giorni nostri con diverse, se vogliamo, variazioni, e lo stesso Monopoli, se ci pensiamo, sono sempre dadi, un percorso e con difficoltà oppure motivi di vantaggio a secondo dello stop della casella su cui il numero uscito dai dadi ti permette di avanzare, a volte anche di indietreggiare. E questo passo, che tra l'altro è ripreso anche in un gioco con un'invenzione che ci riporta, pensate, ai tempi della guerra di Troia, inventato da Palamede durante l'assedio, e così nasce il gioco dell'oca. Sapete che Odisseo non voleva partire per la guerra di Troia, ma non ne voleva sapere nulla, ma figurati se voleva stare lontano da casa, far morire tutti i suoi compagni, non ne voleva sapere, non parto, e già, e come fa per dare questa giustificazione? Niente, il re di Itaca è matto, si finge matto, completamente impazzito, si finge matto l'astuto Odisseo, In che modo? Inizia ad arare il bagnasciuga di una spiaggia sulle rive di Itaca. Ma come? È impazzito il re. Lega i buoi e comincia ad arare. Cosa può crescere in riva al mare? Già che c'è l'alta marea, riva alle onde, c'è il sale. Eppure ha portato i buoi, tutta la sua attrezzatura per fare solchi e continuare ad arare la spiaggia. Ma è impazzito. Palamede dice no, guardate che questo è lucidissimo, sta facendo il pazzo per non partire in guerra. Allora prende il piccolo Telemaco e lo mette davanti alla lama dell'aratro. Ma sei matto, guarda che pazzo, uccide un ragazzino. No, sta a vedere. E infatti Ulisse ferma subito, slega i buoi, va a prendere in braccio il piccolo Telemaco, visto che non è matto, sta facendo appunto il furbo per non pagar dazi e non partire per la guerra. E da lì tra i due da subito non è corso buon sangue. Breve last minute, ve ne do qualche anticipazione. La scorta di Enrico, quando i supereroi lavoravano per il PC, di e con Luca Telese, liberamente tratto dal bestseller di Luca Telese, La scorta di Enrico. Sarà appunto martedì 11 giugno, cioè domani alle ore 20:30, in sala Leo De Berardinis all'Arena del Sole. A 50 anni dalla scomparsa di Enrico Berlinguer, diverse le tappe dove Telese ha portato questo suo lavoro, con altre collaborazioni di cui poi darò presentazione. Dopo le tappe di Roma a Milano dello scorso maggio, arriva sul palcoscenico del Teatro Arena del Sole di Bologna lo spettacolo La scorta di Enrico, quando i supereroi lavoravano per il PC, di e con Luca Telese. Le edizioni per quanto riguarda questo saggio sono tratte dalle edizioni Solferino. Pubblicità, rientriamo con il last minute di oggi che ci porterà all'Arena del Sole per la giornata di martedì 11 giugno, cioè domani a brevissimo, con approfondimento che ho portato in conversazione con Luca Telese stesso. A tra poco!